Lo so, all'inizio è un po' difficile, ma poi avviene che il miracolo succede per una giornata meravigliosa, un miracolo che colpisce le mattiniere e i mattinieri, non sembra? All'inizio sei un po' arrabbiati, cara Carlotta, ma vedrai, la tua giornata cambierà. Buongiorno! Buongiorno a tutti e a tutte, carissimi ascoltatori e ascoltatrici. Sì, oggi infatti non sono vestita come una bionda della rivincita, perché il nostro amato William Piana mi ha invitato in diretta per il Breakfast Club, la madrina della seconda edizione del premio Pellegrino. Non so se ho preso degli accidenti per questo, ma ti vedo bella sorridente, seppur ancora in camicia da notte, e sono felice di questo perché, come ben sapete, il mattino ho l'oro in bocca, a me piacciono le persone mattiniere. Ti ho un po' stravolto i piani, ma ne avrò merito alla fine. Seconda edizione premio Pellegrino. In cosa consiste il premio Pellegrino? Due parole per questo contest amichevole, premio che nasce nel 2016, premio che nasce dalla passione per la letteratura, per la buona cucina casalinga, premio che non ha e non vuole avere nessun ritorno né economico né di immagine, ma solo una visione romantica per gli appassionati che si ritrovano a parlare di libri davanti a un buon piatto di pappardelle ai porcini. Tutto questo stare a tavola parlando di libri, secondo me, è contraddistinto dall'hashtag Will Up. Sì, tra l'altro io posso confermare che effettivamente questo posto è veramente buono a livello di cucina, quindi... È detto da una buon gustaia del sì, sud. Assolutamente vale doppio, sì. Vale doppio. E quindi non vuole avere un'importanza da persona saccente, ma semplicemente da appassionate e appassionati che vogliono condividere i propri consigli letterari e farlo con il convivio, senza falsa umiltà, senza quello che può essere un sviare da un'attenzione di altri appassionati, ma semplicemente per condividere. Anno 2017, parleremo di queste caratteristiche dell'annata appena trascorsa, ma iniziamo con Carlotta a proposito di un evento importante. Qual è stato l'evento letterario al quale abbiamo partecipato? Allora, abbiamo partecipato, io, William e in particolare anche Erika, che salutiamo, che starà però dormendo, suppongo, e abbiamo partecipato alla presentazione del libro Tre piani di Eshkol Nevo, in cui era presente l'autore stesso, ed eravamo alla biblioteca Ulisse, e vicino, non mi ricordo adesso la zona, Via degli Orti, libreria esattamente, Ulisse. Ed è stato un evento per me molto significativo, perché in realtà non conoscevo l'autore, quindi ho avuto modo di appunto conoscere la sua personalità, appunto la sua scrittura. Tra l'altro ci hanno regalato il libro anche con una breve, appunto, una breve introduzione dell'autore, e devo dire che è stata una scoperta, perché questo libro, poi ovviamente me lo sono letto credo forse in 3 giorni probabilmente, è un libro che secondo me assomiglia moltissimo alla scrittura di Calvino. E non è un caso, perché effettivamente l'autore, anche se ovviamente apprezza gli autori israeliani, perché ricordiamo appunto che lui è israeliano, come per esempio Oz, che era suo insegnante, lui piace definirlo così, ma in realtà lui ama gli autori italiani come Elsa Morante, Henri De Luca, Italo Calvino, insomma, chi più ne ha più ne metta. E questo libro, I Tre Piani, a me è piaciuto tantissimo, perché praticamente racconta la storia di una palazzina di Tel Aviv, appunto costruita su 3 piani, e lui lì rappresenta come se fossero i 3 piani dell'anima, no? Quindi secondo una visione anche di Freud, il piano dell'esse, dell'io, del superio. Questa cosa a me è veramente mi ha sconvolto, e soprattutto le prime 2 storie della palazzina non hanno una fine. Cioè finiscono con una domanda, quindi è il lettore che si deve immedesimare in questi protagonisti e provare a trovare una soluzione, una possibile fine. Invece la 3ª storia, la cosa bella è che è tutta diversa, è costruita e ha una fine, quindi secondo me rappresenta proprio la fase del superio, no? Certo, e appunto si collega alla simmetria dei desideri di Eshkol Nevo, dove questi ragazzi si ritrovano per programmare in maniera fantastica il loro futuro. Anche in questo caso si parla di futuro, si parla di sviluppo, si parla di un'attenzione particolare per quello che è una storia di vita, una quotidianità. Eshkol Nevo è lo scrittore della quotidianità e sa renderla magica. Questa, secondo me, è veramente il valore aggiunto. Sì. Non si sa bene come, ma c'è sempre qualcosa di straordinario. Sì, ma poi una delle sue caratteristiche è proprio la molteplicità delle voci, no? Certo. Cioè, secondo lui non c'è mai una verità prestabilita, ci sono sempre storie dentro storie. Secondo lui, tra l'altro, io mi ricordo che durante appunto l'incontro diceva che secondo lui lo scopo dello scrittore è quello di ricercare delle storie magari che sono sottostanti, che non le vedi in superficie, no? Quindi ricercare la storia dentro la storia. Un aspetto bello, sì. Molto. Diversamente normale, appunto. Infatti Eshkol Nevo, secondo me, rientra in questa categoria. Un'umiltà incredibile, non certo forzata, quella è la falsa umiltà, che è abbastanza, anzi, molto insopportabile. Eshkol Nevo si presenta chiedendomi che lavoro faccio. Tra l'altro mi ha intervistato lui. Ho detto: guarda, io faccio lo speaker e il DJ, è sempre stato il mio sogno. Sì, è vero. Ti puoi immaginare. Ho detto: guarda, no, è meglio continuare a scrivere se si ha il tuo talento, indubbiamente. Esatto. Per cui proseguiamo pure con altre pubblicazioni per Neri Pozza o per altri editori. Sottolineiamo Neri Pozza perché ha vissuto una stagione veramente magica, e sottolineiamo anche la personalità e la disponibilità di questo grande scrittore, non solo, come vi dicevo, vicino a una quotidianità, ma anche vicino, tra virgolette, anche se non mi piace questa parola, una normalità. Lui, dimenticate l'autore così alternativo, bohemien, lui accompagna le figlie a scuola e poi conduce una vita normalissima. Sì, si mette a scrivere come rubando conversazioni nelle sale d'aspetto. Anche diceva durante serate con amici, cioè sì, seduti al bar, lui ruba conversazioni. Sì, ma anche il linguaggio infatti è molto, cioè ovviamente lui ha scritto appunto in israeliano, però diceva che appunto il suo linguaggio è quello comune. Cioè, certo, non scrive in maniera, non so come dire, artefatta, no, ma a livello comune, così tutti possono, esatto, mettersi nei panni proprio dei suoi protagonisti. Grande scrittore pop, infatti, di un pop raffinato. Allora adesso facciamo uno stacchetto musicale, perché a tale proposito parleremo di Eshkol Nevo anche nella magica cinquina votata da voi. Beh, intanto io ringrazio la giuria composta da Silvia Albertazzi, Paola Saoncella, Alex Marcolla, che ha presentato tra l'altro Eshkol Nevo, sì, è stato sì, il sì, presentatore dell'incontro a Bologna con lo scrittore israeliano. E al rientro, dopo lo stacco musicale, Carlotta, parleremo anche dei grandi esclusi. Sì. Perché sì, ci sono stati dei titoli che a quanto pare non hanno incontrato il voto delle ascoltatrici, ma sono comunque dei grandi. Io volevo citare, capito? Quindi George Benson, tra poco al Voltiamo Pagina con Premio Pellegrino seconda edizione. Abbiamo parlato dell'incontro letterario del 2017, rientriamo e parliamo tra virgolette dei grandi esclusi. I'm not afraid to say I'm starting to fall for you. Maybe it's the way you smile that makes me warm inside. I wish I knew, but just can't say, 'cause I don't know the reason why. I only know if this is love. I wanna welcome you into my world. My December into May. That's why I want you here beside me every day, every day. It's the way you smile that makes me warm inside. I wish I knew, but just can't say. I don't know the reason why. I don't even know if this is love. I wanna welcome you into my world. Le letteratura in lingua ebraica, in lingua yiddish, di cui abbiamo parlato anche con Paola Sauncella, con Chaim Potok, con Alex Marcolla, con la dinastia dei Singer e tanti altri autori. Ad Eshkol Nevo, per concludere, chiedo nell'intervista breve dalla libreria Ulisse che differenza c'è rispetto a una letteratura di fine Ottocento alla letteratura attuale, che percorso, cos'è cambiato. Lui semplicemente ha detto il copia e incolla. Quindi no, poi ovviamente l'umorismo fa parte di una grande personalità e allo stesso tempo però mi ha ricordato, non è semplicemente un gesto tecnico informatico, ma è proprio la velocità del pensiero nel voler esporre la propria narrazione. Chiudiamo e riprenderemo nella cinquina magica del 2017 Eshkol Nevo con Tre Piani e parliamo di grandi esclusi. Ogni anno si parla di come è andata l'annata letteraria. Secondo me è stata un po' sottovalutata, non è stata poi così male, è stata tanto molto molto molto forbita e molto piena di titoli, e questa è sempre cosa buona e giusta, e allo stesso tempo abbiamo trovato per la prima volta edizioni in Italia, di cui parleremo tra pochissimo, che prima non avevano trovato spazio, non avevano la possibilità di essere pubblicate. Ad esempio non è stato mai pubblicato Il disertore di Siegfried Lenz, lo fa Neri Pozza, che è la casa editrice per il 2017, secondo me grande casa editrice. Il disertore di Siegfried Lenz, l'autore di Lezioni di tedesco, non ha mai trovato pubblicazione in quanto autobiografico. Siegfried Lenz è stato arruolato a forza nella gioventù hitleriana per la seconda guerra mondiale, lui diventa disertore e va all'interno della resistenza polacca. Lui scrive questo romanzo, in seguito lo propone a un editore tedesco senza sapere che questo editore è stato un gerarca nazista. Quindi ovviamente non è stato pubblicato. Non è stato mai pubblicato, viene pubblicato da Neri Pozza questo romanzo, secondo me è uno dei capolavori per il 2017, è un grande escluso. Passiamo a André Aciman, di cui abbiamo letto nelle prime pagine appunto la riproposta in termini cinematografici di Chiamami col tuo nome, un lavoro precedente. Esce quest'anno Variazioni su un tema originali per Guanda, un romanzo anche in questo caso che possiamo assolutamente mettere in parallelo con Nevo, perché abbiamo una storia di vita, una storia di un ritorno, in questo caso un passaggio indietro nel tempo, un ricordo, e trovare come non tanto i tempi siano cambiati, ma quanto siamo cambiati noi. André Aciman è un grandissimo scrittore, autore di Chiamami col tuo nome, Edizioni Guanda, Variazioni su un tema originale, secondo me fa parte dei grandi esclusi. I grandi esclusi vengono anche da Adelphi, casa editrice quanto mai autorevole. Sì. No? Ecco, quest'anno un po' è stata, scusate, ma visto che si può, un po' una delusione, è stata un'annata un po' sottotono, ecco, non ci mancherebbe, non sto castigando nessuno. Yasmin Resa, Babilonia, per me è un libro bellissimo, non ha trovato spazio nella cinquina magica. Storia d'amore, è sempre in una palazzina anche questa. Vero. Succedono delle cose incredibili. Ma in queste palazzine succede di tutto. Delle cose incredibili in questi condomini, tra due persone che si ritrovano coinvolte in una situazione molto molto difficile, è una cosa che andrà poi a stravolgere anche la loro quotidianità, fatta di solitudine, reiterazione e noia. Si ritroveranno coinvolti in un omicidio, in questo caso un femminicidio, e beh, quello che succede magari lo potete scoprire in Babilonia, Yasmina Resa, Edizioni Adelphi. Chiudiamo con il noir dell'anno, grande escluso per me, libro anche in questo caso che ha portato la tradizione del racconto, lo vogliamo chiamare di viaggio, anche se di viaggi in questo caso ne hanno solo il contorno, Cacciatori nel buio, Lawrence Osborne, una storia del sud-est asiatico dove troviamo questo strano ragazzo inglese insegnante che si ritrova da solo a prolungare la propria vacanza grazie a una vincita che per lui è esigua, vincerà $1,000 in un casino, ma per gli abitanti del luogo sono una quantità di soldi infinita. Sì, tra l'altro l'avevamo presentato, mi sembra. Sì, adesso esatto. Sto facendo in maniera molto veloce quello che è già stato portato, perché secondo me nel 2017, come ti ho detto, di uscite ce ne sono state tante che meritano due parole. Quindi Adelphi, che tra l'altro, come vi ho detto, quest'anno per me è stata un pochettino sottotono, conclude questo quartetto, Variazioni su un tema originale, Guanda, Siegfried Lenz, Il disegno Disertore e Cacciatori nel buio e Babilonia a Delfi, rispettivamente Lores Osborne e Yasmina Reza. Stiamo per entrare nella cinquina magica, Carlotta. Meglio. Sì, è meglio. Abbiamo parlato dei grandi esclusi, adesso tocca ai protagonisti. Esatto. Allora, chi ha votato? Hanno votato tutte, chi era interessato a questo contest tra ascoltatrici e ascoltatori. Hai votato anche tu. Sì, Nevo. Lo dico. Certo, ci infatti sta. Sarà di rientro, lo citeremo anche per quanto riguarda la cinquina che ci accompagnerà al vincitore o alla vincitrice della stagione 2017. Sambop, Cannonball Adderley, poi torniamo insieme perché si inizia la scalata al podio. Appassionati, anche Silvia Albertazzi, giornalista e scrittrice, invitati a comporre la giuria per il premio Pellegrino, ai quali è stato richiesto la presenza di 5 titoli per l'annata appena trascorsa. 5 titoli che non devono avere necessariamente il libro più bello di tutti i tempi, di tutto l'anno. L'importante è che abbia visto pubblicazione nell'anno appena trascorso e che abbia dato qualcosa di più per quanto riguarda l'emozione. Non è detto che sia il più bello in assoluto, ma quello che hai trovato così al volo nella tua libreria. Anche perché secondo me comunque l'emozione che scaturisce da un libro è molto soggettiva e personale, quindi ovviamente cambia da anima in anima. Con un niente, per un nulla. Quindi allora i 5 che sono stati portati da me sono completamente diversi dai 5 portati da questo insieme di voti che sono giunti sulla nostra pagina del Facebook del Breakfast Club Fujiko per quanto riguarda Facebook, con i nostri sms 333-180-9494. Questo testimonia assolutamente la regolarità del contest. Tu sei la madrina per questa seconda edizione, io sono stato per la prima edizione, quindi Julian Barnes autore del libro Il rumore del tempo, che ha ottenuto più voti nel 2016, se viene a ritirare il suo premio io dovrò servirlo a tavola, come se fosse un'incoronazione. Questo ti toccherà a te con la vincitrice o il vincitore per il 2017. Iniziamo allora dai 5 libri che sono così riusciti a arrivare in questa fase finale e poi proclamare la vincitrice o il vincitore. Esco il Nevo, ne abbiamo già parlato. Sì. Abbiamo Le notte in quarta di copertina, da chi sono riportate? Da Haim Bin Nun di Edut Arnott e Guy Meruz. E cosa dicono? Una potente allegoria delle nostre paure più profonde, questo secondo me è quello che lo riassume più di tutti, e anche il nuovo libro di Eshkol Nevo, l'esperienza letteraria più intensa che ho avuto quest'anno. Leggetelo, non ve ne pentirete, e questo ve lo dico anche io, perché ve lo consiglio davvero tantissimo. Che lui ha dato consigli letterari, Romain Gary con Gli Aquiloni, edito dalla stessa Neri Pozza. Edito, è curiosa questa. Lui in presentazione dice questo: casualmente Neri Pozza una settimana dopo lo manda nelle librerie. Che caso, come delle volte, vabbè, ma è giusto così del resto. E poi cosa è successo? È successo che una grande favorita è già due edizioni che entra nelle finali e non riesce per un soffio. È una grandissima scrittrice francese, è la più grande scrittrice francese vivente, si chiama Annie Ernaux, Memoria di ragazza. L'anno scorso con L'altra figlia per un soffio non si aggiudica la prima edizione del premio. Annie Ernaux è una scrittrice che smentisce un po' tutti quelli che vogliono una narrazione distante, intellettuale, astratta, e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché fa una cosa meravigliosa. Annie Ernaux, sempre restando con parole raffinate e narrazione assolutamente specchiata e cristallina, parla di sé, parla delle sue esperienze, parla del suo passato, parla della sua vita, che è cosa giustissima secondo me. Comunque, se ci pensi, tra tutti i libri di oggi c'è una specie di filo conduttore, cioè la storia di un personaggio, no? Certo. Ma vista da un punto di vista emotivo proprio, non da un punto di vista distaccato e freddo. No, no, non ci sono tanti tecnicismi quanto emozioni. Infatti, a fior di pelle, Annie Ernaux con Memoria di ragazza, edito dall'Orm, anche per quest'anno presente nella fase conclusiva e nella fase finale, però purtroppo non riesce a essere la prima assoluta. Ciò non toglie che questo è un grandissimo capolavoro. In Memoria di ragazza troviamo anche la parte più esplicita, se vogliamo, dal punto di vista intimo, ed è difficile parlare di sé in questi termini, anche se, soprattutto se si è vissuto nel passato. Non è giovanissima Annie Ernaux, ma è assolutamente un esempio di letteratura, per me, meravigliosa, parlando di se stessa. Ricordiamo Gli anni e il posto, sempre edito da Orm, della stessa Annie Ernaux. Proseguiamo, perché ritroviamo Neri Pozza con Il mio ex equo. Ecco, questi sono stati i miei due voti per il 2017. Li ritroviamo, un libro di Daphne du Maurier, scrittrice che ha già dato il via anche al 2018, è uscito per la Beate Edizioni La casa sull'estuario, di cui magari più tardi vi parlerò. Mia cugina Rachele, questa storia di due come posso, zio e nipote, insomma, di un parente più adulto e uno più giovane. A un certo punto l'adulto, durante un viaggio in Italia, si innamora di questa lontanissima parente Rachele. Il più giovane resta da solo e ha una serie di emozioni, inizia a fare previsioni, inizia a pensare chi può essere, come può essere questa Rachele. Si fa un'idea ben precisa, alla fine la conosce e scopre che la sua idea è completamente diversa. Daphne du Maurier, Mia cugina Rachele, Neri Pozza. Questo libro è indicato soprattutto per i pregiudizi, per quello che pensiamo senza conoscere quello che poi è in realtà la storia. Mi viene in mente qualcosa? È il pregiudizio, ragazzi, quanto può essere negativo e frettoloso, ma anche una bellissima storia dal punto di vista sentimentale. Tosto e intenso, Il regno animale di Jean-Baptiste Delamont, libro molto molto crudo se vogliamo, ma anche molto vero, molto reale. Una storia che si perde dagli inizi della prima guerra mondiale fino ad arrivare ai giorni nostri, dove una famiglia che si incentra appunto, per quanto riguarda lo sviluppo e il sostentamento della stessa famiglia, sull'allevamento suino, e si ritrova praticamente che gli animali sono sono più umani degli esseri stessi umani che diventano bestie. Questo è un libro bellissimo di una mano sensibile, Jean-Baptiste Delamont, Ripozza Regno Animale, consigliatissimo. Posso fare una confessione? Confidati. È piaciuto così tanto a William che la sera nel gruppo di noi ragazze che collaboriamo con lui ce lo leggeva e ci dava la buonanotte con queste piccole note vocali. Bello questo, potremmo fare delle letture condivise. Delle volte sui gruppi ci sono tristezze che piuttosto... Ma infatti secondo me stiamo usando WhatsApp nel modo più giusto. Bene, 8:28 minuti, torniamo perché dopo la pubblicità ci sarà la proclamazione ufficiale per il 2017. Oggi mercoledì 24 gennaio, seppur 2018, i primi giorni sono stati, come ben potete intuire, un po' a rilento per la letteratura, quindi noi ritroveremo l'annata passata e la proclamazione del premio Pellegrino, seconda edizione. Deixando monte da viúva sem mulher, que eu me dei conta que a santa lá da fonte ficou 3 dias sem beata pra rezar. Ficou 3 dias sem beata pra cantar a cantoria que há 10 anos todo dia vem cantar. As rezadeiras todas filhas de Maria, muitas vindas da Bahia com promessas pra pagar. Rezadeiras todas filhas de Maria, todas elas com um bocado de promessas pra pagar. Aquela fonte permanece desaguando de um milagre que há 10 anos acontece no lugar. Ela não brota de uma grota, de uma pedra, nunca medra como qualquer fonte costuma medrar. Bem na caatinga onde quase nunca pinga, nessa fonte sempre chove todo dia sem falhar. Esse fenômeno de fato inusitado parece que é provocado pela firme devoção das rezadeiras que vem sempre em rumaria de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e região. Mas todos sabem se a oração não principia com a moça da Bahia, então chover não chove não. Algumas moças rezadeiras que vieram de outros lugares sem ligar pra tradição, cantaram tudo, tudo, tudo que puderam, mas nos 3 dias não choveu no Lajedão. Nesses 3 dias sem as moças da Bahia pra cantar a cantoria, todo mundo percebeu. Não adianta, pirulito é pirulito, periquito é periquito, mito é mito e Deus é Deus. Minha santa, pirulito é pirulito, periquito é periquito, mito é mito e Deus é Deus. Fez a curva do horizonte, deixando o monte da viúva sem molhar, que eu me dei conta que a santa lá da fonte ficou 3 dias sem beata pra rezar. Ficou 3 dias sem beata pra cantar a cantoria que há 10 anos todo dia vem cantar. As rezadeiras todas filhas de Maria, muitas vindas da Bahia com promessas pra pagar. Rezadeiras todas filhas de Maria, todas elas com um bocado de promessas pra pagar. Aquela fonte permanece desaguando de um milagre que há 10 anos acontece no lugar. Ela não brota de uma grota, de uma pedra, nunca medra como qualquer fonte costuma medrar. Bem na caatinga onde quase nunca pinga, nessa fonte sempre chove todo dia sem falhar. Esse fenômeno de fato inusitado parece que é provocado pela firme devoção das rezadeiras que vem sempre em Romaria de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e região. Mas todos sabem se a oração não principia com a moça da Bahia, então chover não chove não. Algumas moças rezadeiras que vieram de outros lugares sem ligar pra tradição, cantaram tudo, tudo, tudo que puderam, mas nos 3 dias não choveu no Lajedão. Nesses 3 dias sem as moças da Bahia pra cantar a cantoria, todo mundo percebeu. Não adianta pirulito tá pirulito, periquita, periquito, mita, mito, e Deus é Deus, minha santa. Pirulita, pirulito, periquita, periquito, mito, é mito, e Deus é Deus. Ed eccoci ritornati sui 103.1 di Radio Città Fujiko con Breakfast Club, per Breakfast Club con Willy Appiana e Carlotta Calarese. Alvoltiamo pagina, facciamo un breve identikit. Allora, è nata nel Maine, vive a New York, è autrice per Fazzi Editori di tre romanzi, ovvero Amy e Isabel, Resta con me e Ragazzi Burgess, e della raccolta di racconti Olive Kitterdijk, scusate la pronuncia, con cui anzi ha vinto il premio Pulitzer nel 2009, il premio Bancarella nel 2010 e il premio Mondello nel 2012. Tra l'altro, dalla stessa raccolta di racconti è stata tratta una serie TV prodotta dalla HBO. Per Einaudi ha pubblicato Mi chiamo Lucy Barton nel 2016, candidato al Man Booker Prize del 2016 e al Bailey's Woman Prize del 2016. Anything is possible, tutto è possibile, vincitrice del premio Pellegrino edizione 2017, proclamata dalla nostra madrina Carlotta Calarese, Elisa Beth Strauss. Preferisco definirlo uno spin-off piuttosto che un proseguire. Ovviamente l'immaginario, anche per la casa editrice Einaudi, per il disegno in copertina, per quello che troviamo nella sua narrazione, facilmente si può essere confusi, e spesso mi sento dire: ma tutto è possibile, è il proseguio di Mi chiamo Lucy Barton. No, ha a che fare ovviamente come spin-off. Cos'è uno spin-off? Maggior parte di voi la sapranno, perché spesso ne parlo di questa narrazione. Ad esempio Happy Days e Laverne and Shirley. Tu non eri neanche nei pensieri dei tuoi genitori? No, però ne parlo io. Happy Days è questa serie, questa compagnia di ragazzi originali, simpatici, particolari, ambientata negli anni 50 a Milwaukee nel Wisconsin. Ovviamente avevano amiche, amici, avevano i loro flirt, avevano la loro quotidianità. Tra le ragazze c'erano anche Laverne and Shirley, e non erano protagoniste di Happy Days. Beh, la loro figura è talmente appassionante, è talmente azzeccata, è talmente soprattutto moderna, che ne hanno creato uno spin-off. Esatto, una serie parallela che addirittura ha avuto, se vogliamo, per un pubblico più attento, anche più successo dello stesso Happy Days. Ecco, rispetto a Mi chiamo Lucy Barton, Anything is Possible, tutto è possibile, è una raccolta di personaggi che troviamo all'interno di Lucy Barton, che trovano il loro spazio da protagonisti. Sì, potrebbero essere dei racconti autoconclusivi, anche se in realtà poi si nota appunto questo filo che li lega tra di loro, quindi poi diventa una biografia dei personaggi a livello totale, però sì, potrebbero essere letti come racconti autoconclusivi, secondo me. Bella questa definizione, te la posso rubare, Carlo? Sì. Bene, detto questo, dopo aver proclamato e aver invitato a cena la nostra Elizabeth Strout, autrice americana, sempre per Einaudi, è un caso che i due autori vincitori di queste due edizioni siano stati pubblicati da Einaudi, totalmente un caso. È una major, noi siamo indipendenti, lo ribadiamo, però in questo caso onore al merito. Onore al merito anche per la veridicità di questo piccolo ma grande concorso. Elizabeth Strout da me non è stata citata, anzi è un'autrice che io ho amato tantissimo dai ragazzi Burgess e poi ritrovata in Mi chiamo Lucy Barton e in Tutto è possibile. Sì, certo, riconosco la grandezza immensa dell'autrice, però insomma ne ho preferite altre per questa. Quindi è un concorso pulito, Carlotta. Sì, certo, sempre. La nostra Silvia Albertazzi, ormai redattrice oltre che scrittrice e giornalista per Il Manifesto, per Alias di Domenica, dove l'aspetto letterario incentrato è protagonista, anche lei nella giuria di questo premio Pellegrino giunto alla seconda edizione, anche perché lei ha il contatto con l'ufficio stampa di Elizabeth Strout, quindi possiamo ufficialmente invitarla. Ok, lei un po', mi hanno detto, un po' orsetta, sì, un po' schiva, però dopo due caraffe di vino magari. Ma sì, tra l'altro ci sono io che la faccio sciogliere. Okay, certo. Elizabeth Strout, da Mi chiamo Lucy Barton fino a questa serie di narrazione Tutto è possibile, e Einaudi editore, fa coppia con Julian Barnes, Il rumore del tempo, entrambi Einaudi. Julian Barnes ne abbiamo parlato ampiamente per la scorsa edizione, quest'anno hanno ripubblicato il suo secondo libro, è stata una ristampa. Ovviamente il gigante è da citare, è da leggere, è immancabile, però per quanto riguarda l'aspetto più emotivo, la novità, qualcosa in cui tutto è possibile, abbiamo preferito dare spazio anche ad altri grandissimi scrittori. È successo già qualcosa per questa stagione 2018, poco, secondo me ancora poco, ma qualcosa è successo e lo scopriremo dopo questo breve stacco musicale, come dicono gli speaker seri. A tra poco. 1907, nasce a Londra il 13 maggio, muore a Parigi il 19 aprile del 1989, poetessa, scrittrice, drammaturga, l'abbiamo già conosciuto tramite una biografia di Tatiana de Rosnay intitolata semplicemente Daphne, libro capolavoro. Libro capolavoro secondo me anche mia cugina Rachele, quest'anno nella top list di voi ascoltatrici e ascoltatori appunto a Sei in Predito da Neri Pozza, lo troviamo come prima uscita per il 2018, evidentemente hanno intuito la grandezza finalmente di queste grandi autrici della prima metà del Novecento, donne, la rivincita, lei è bionda e se vuoi puoi farne anche uno speciale. Esatto, facciamo uno speciale. Mi ritengo un conoscitore. La casa sull'estuario è in parte un Neri Pozza, è una ristampa per la prima volta in Italia, è Beat, è questa piccola casa editrice che raccoglie in formato tascabile, ma a quanto pare non solo, anche libri che non hanno mai visto pubblicazione in Italia. Le opere di Daphne du Maurier hanno dato vita anche a importanti film, Rebecca la prima moglie e Donna a bordo, La collina della fame, insomma I parassiti, grandissimo libro, Mia cugina Rachele, scritto nel 1951, e poi quello che ha dato vita al famosissimo thriller di Hitchcock, Gli uccelli, nel 1953. Più importante per le immagini, la storia, la cornice, Hitchcock ci metterà l'aspetto, diciamo così, più legato al giallo e al thriller. La casa sull'estuario, Daphne du Maurier, Superbeat, è la prima uscita per il 2018. Ricordiamo che sabato è la giornata della memoria e a tale proposito ti farei presentare questo libro. Sì, è un libro edito da Giuntina, scritto da Yoram Kaniuk, che si chiama Adamo Risorto, ed è considerato un libro rivoluzionario a quanto pare, perché è un'opera che ha cambiato il modo in cui la Shoah poteva essere rappresentata nella letteratura israeliana. Il protagonista, Adam Stein, è sopravvissuto a questa terribile guerra, a questo genocidio, grazie al suo talento di clown. Infatti il suo ruolo nei campi di concentramento era quello di ingannare le persone che andavano purtroppo incontro alla morte e di fare, diciamo, la parte del cane per il comandante. Un testo duro, ma che ha come scenario appunto un centro di riabilitazione e terapia situato nel cuore del deserto del Negev. Yoram Kaniuk, l'autore, ha scritto romanzi, racconti e libri per ragazzi tradotti in più di 20 lingue. Tra l'altro da questo libro a quanto pare sono state anche riprese serie TV e film. E questo autore è morto nel 2013, purtroppo. Sì, Adamo Risorto, un libro che, se vogliamo, in maniera più tragica ricorda, come hai detto giustamente, La vita è bella. Sì. Con grande forza, non dico ironia e non dico neanche anche sarcasmo, perché no, sarebbe poco rispettoso, ma con grande forza ricorda forse la più grande tragedia del Novecento, e lo fa con la verità, lo fa con l'aspetto di evasione, in questo caso non fisica, ma l'evasione di spirito, l'evasione mentale. Lui costretto a fare il cane e fare il clown per i gerarchi, allo stesso tempo per distrarre chi stava andando incontro alla morte. Ovviamente dopo un'esperienza del genere va completamente giù di testa, e infatti è ambientato in un centro di recupero per persone, e come purtroppo ampiamente intuibile, malata mentalmente dopo le esperienze gravissime che ha vissuto. Abbiamo voluto ricordare in conclusione la giornata della memoria, che è il 27 gennaio, con questa pubblicazione edita da Giuntina. Il Voltiamo Pagina riprenderà con Alex Marcolla da mercoledì prossimo. Noi aspettiamo Elisabeth Strout e io, Carlotta, ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio te, ringrazio voi per averci ascoltato sempre. Tra poco torniamo per i ringraziamenti. Esatto. No, per i saluti. Per basta i saluti. Ringraziamenti, cioè, perché ringraziamo ancora. Dai, per i saluti. parla di te nell'EDP enciclopedico. Invece io apprezzo questa tua passione e ti posso assicurare che la incoraggio. Nuova patologia, la selfite, farsi le foto, per cui non è una patologia. No, dai, è un modo per essere al centro dei social, no? E per comunicare, secondo me, soprattutto. È un modo per comunicare, sostengo. Non è assolutamente poi necessariamente visto come essere al centro dell'attenzione, però ovvio la vanità c'è. Ma chi non è vanesio, Carlotta? Tra l'altro hanno fatto adesso un telefilm su Netflix americano dove appunto c'è questa ragazza che lavora facendosi dei selfie e viene considerata un'artista perché si fa questi selfie nelle posizioni più strane, nei posti vestita. Più strani, sì, vestita, e lì pubblica in continuazione e viene considerata un'artista. Ho capito, noi artisti li troviamo domani per la rubrica In Mostra, ci sarai domani? Sì, ti è piaciuto pure finanziarti presto, dalle sue soddisfazioni. Sì. Domani... addirittura sono arrivata in anticipo. Ho apprezzato tantissimo, ti offro la colazione tra pochissimo, intanto che voi ascoltate l'EDP enciclopedico, domani andiamo in mostra con Carlotta Calarese per conoscere l'Ottocento e il Novecento, fine 800, inizio 900 nella nostra città di Bologna, con un'esposizione che avrà presentazione per la giornata stessa, quindi siamo in anteprima, e ufficialmente l'apertura per la giornata di sabato sarà in Sala d'Ercole al Palazzo dell'Archiginnasio. Beh, vi lascio la sorpresa per il protagonista domani nella rubrica In Mostra. Concludiamo con l'Edipeo che ho già detto, ricordando Radio Zanardi, Radio Bullet, rassegna stampa tra pochissimo condotta da Alfredo Pasquali, e domani In Mostra. Basta, saluti. Ciao. Sì, ricordo anche la Rivincita delle Bionde. Vai. Ogni lunedì dalle 13 sempre sui 103.1. Quale miglior conclusione? Ciao. Ciao.